21.09, Radio Onda Rossa 87.9 in modulazione di frequenza. Anche per oggi 25 luglio 2018, ultimo appuntamento per questa stagione, poi ci sarà la pausa estiva che riguarderà anche la radio nella sua interezza e quindi, a parte il disordine che ci sarà il 30 luglio, questa voce ritornerà direttamente in settembre, i primi di settembre. www.ondarossa.info per il sito internet, per lo streaming e per le notizie contenute nel sito stesso. Per le comunicazioni mediante posta elettronica ondarossa@ondarossa.info. Domani sul sito e sulla pagina Facebook prove tecniche di trasmissione /disorder, come al solito comparirà playlist e podcast. Il palinsesto prevede alle 22.30 circa, 25 o'clock. Si saluta Alessandra qui da Roma, dall'altra parte del mondo, in Argentina Maya, Luciano sempre qui da Roma, Carlos Silva dal Messico, da Milano Massimo Mascheroni, anche se impegnato anche lui in trasmissione in radio da quelle parti, a Milano. Addirittura dall'Africa, il medico della peste, lo salutiamo, dal Burundi, Raffaele da Napoli, Raffaele Pezzella, Nicola Locci dalla Sardegna, e noi da Roma andiamo ad iniziare una artista emergente con all'attivo un mini che speriamo sia l'anticipazione di una carriera più lunga, e sto parlando di Alexia Robbio, un quattro tracce che si sviluppa su trame ambient, un po' di scuola warp per esempio di Aphex Twin, ma in parte anche nell'ambient di scuola per esempio nord europea. Un quattro tracce dal nome Emotions. Anche la quarta traccia, come le altre, hanno come dire, come nome una sorta di formula chimica. Ci andiamo ad ascoltare questa traccia per Alexia Robbio. Thank you. Era dunque Alexia Robbio da Quest Emotions, peraltro scaricabile in free download dalla sua pagina Bandcamp. Quattro tracce, questa è la conclusiva, C10H12N2O, effettivamente sa molto di formula chimica. L'ambient, ci sono molti ascolti warp, secondo me, appunto, nelle corde di Alexia Robbio. Un EP, diciamo un quattro tracce, che vede anche la collaborazione di Fabrizio Roma della stirpe 999 Anti-Label, personaggio noto nella capitale e non solo. Siamo rimasti a Roma, dunque l'abbiamo salutato qualche minuto fa, lui è in Africa in questo momento, il metrico della peste, in meritate vacanze. E noi ci andiamo invece ad ascoltare questo suo CD, questa traccia molto lunga di 23 minuti che si chiama anche lei Medico della Peste. Ce ne ascoltiamo qualche minuto, sempre qui da Onda Rossa 87.9 con, prove tecniche di trasmissione. improvvisazioni, sicuramente rumorismo, ma anche del post rock, se andiamo un po' a scavare meglio il suono di Medico della Peste, artista ultra sotterraneo qui romano, come lo è in un certo senso anche Alexia Robbio. Si saluta anche Loredana, sempre qui da Roma, Antonella dalla Germania e il buon Like Awake, il grande Like Awake, sempre qui da Roma. Dilatato industrial noise, effettivamente, tanto per rispondere a Nicola Locci, almeno mi sento di definire così, mi rendo conto che le definizioni in genere sono un po' limitate, ma è giusto per darci un po' un minimo di punto di riferimento anche per quanto riguarda il Medico della Peste. Adesso invece in Scozia, e qui c'è lo zampino di Raffaele Pezzella. Lui è Michael Bonaventure, un artista che grazie a Raffaele ho conosciuto attraverso questo lavoro che è una compilation che si chiama Works 2008-2017. Un artista, Michael Bonaventure, che è uno studioso dell'organo in tutte le sue variazioni, uno strumento che poi ha portato ed è arricchito con tutte le strutture dell'avanguardia rumorista tipiche dell'etichetta Nespless Sounds di Raffaele Pezzella e anche del Late Tower Records, etichetta parallela più dedita al dark ambient. Ci ascoltiamo Celestial Objects e Sanctuary per Michael Bonaventure. gli eleganti patterns siderali di Michael Bonaventure, artista proveniente da Edimburgo e quindi scozzese, che scopro in colpevole ritardo, e quindi devo ringraziare il buon Raffaele Pezzella per avermi reso edotto dell'esistenza di questo artista, del quale abbiamo questa antologia Works 2007, anzi 2008-2017, e quindi racchiude lavori che vanno nell'arco di 10 anni per questo artista Michael Bonaventure. Ripeto ancora una volta, un album che esce per la Nesplay Sounds, che oltre a essere una label è anche un gruppo Facebook dove si può apprezzare della buona musica e che consiglio caldamente, a tal punto che si continua attraverso poi una compilation dal nome Electroacoustic Music in Latin America, è un vero e proprio manifesto della scena elettroacustica del grande continente sudamericano. E mentre ringrazio ancora Raffaele per le notizie su Michael Bonaventure, adesso ci ascoltiamo Nicolas Wierzchowski, dal nome decisamente poco sudamericano, ma tant'è, con questa traccia dal nome Imminencia. Di seguito anche Itzel Noitz con The Seeds. Anche questa è una scoperta eccellente, questa ragazza proveniente da Città del Messico, si chiama Itzel Noitz. Un grande personaggio scoperto proprio questa sera, sempre grazie a Raffaele Pezzella, del quale sono costretto sempre a tessere le lodi. E anche di Itzel Noitz e la splendida voce che arricchisce questa traccia. Questa The Seeds è estratta naturalmente da Electroacoustic Music in Latin America. Intanto qui è entrato il buon Christian, un amico di Radio Onda Rossa, oltre che del sottoscritto, uno dei tanti che ha anche partecipato a crowdfunding, fortunatissimo per il trasmettitore di questa radio, oltre a Alessandra, Raffaele ed altri. Lo ringraziamo. E se si vuole mettere seduto lo può anche fare, ovviamente, perché così in piedi sei un po' inquietante, ovviamente sto scherzando. Dunque, Itzel Noitz, eterea è vero, ma secondo me c'è molta inquietudine, quella sana inquietudine che va poi a costruire delle perle musicali tipo questa. E noi rimaniamo dalle parti di Pezzella, anche se in questo senso il buon Giovanni Verga, attraverso Hypothesis, ha stampato questo disco attraverso un'altra etichetta, ma Giovanni Verga rimane sempre legato a Pezzella. Hypothesis è un disco di fattura molto particolare, una sperimentazione che ci rimanda a quelle strutture ardite di Nars Whitwound. La scuola è quella, e la conferma la si può trovare in queste due tracce, Hypothesis O e Hypothesis U.